Mary va all'università. Venne l'ultimo giorno. L'indomani Mary sarebbe partita. Papà e mamma avevano portato a casa il baule. Era rivestito all'esterno da un foglio di stagno lucente, lavorato in modo da formare un disegno a bugne. Strisce di legno verniciato erano inchiodate a metà altezza, lungo i quattro lati e sugli spigoli, e tre strisce correvano per il lungo sul coperchio bombato. Gli angoli erano protetti da cappucci di ferro. Quando chiudevi il coperchio, due linguette di metallo andavano a infilarsi in una fessura apposita e due paia di anelli, anch'essi di ferro, venivano a combaciare in modo che il baule si potesse chiudere con due lucchetti. «È un bel baule solido», disse papà. «Ho comprato anche 50 piedi di corda robusta per legarlo ben bene». Mary era raggiante, tastava il baule con le dita mentre Laura glielo descriveva in tutti i particolari. È il tipo di baule più nuovo che ci sia, Mary. Ti durerà tutta la vita. All'interno il baule era di legno lucido. Mamma lo tappezzò tutto con fogli di giornale e cominciò a metterci dentro le cose di Mary. Andava via via riempiendo gli spazi vuoti con carta appallottolata in modo che nulla si sgualcisse nel corso del lungo viaggio in treno e siccome temeva che gli abiti di Mary non bastassero a riempirlo, ogni tanto inseriva uno strato di carta. Ma quando ebbe finito di sistemare tutti gli abiti e li ebbe pressati bene e coperti con un ultimo foglio, il baule risultò così pieno che per chiuderlo dovette sedersi sul coperchio mentre papà agganciava i lucchetti. Poi, rovesciandolo e girandolo sottosopra più volte, papà ci fece passare attorno nei due sensi diversi giri di corda. Laura lo aiutò a tirarla bene bene mentre lui faceva i nodi. Ecco, disse alla fine, un lavoro fatto come si deve. Finché avevano avuto altro a cui pensare, avevano potuto tenere lontano il pensiero che Mary stava andando via di casa, ma ormai avevano fatto tutto. Non era ancora ora di cena e non c'era più nulla da fare. Papà si schiarì la voce e uscì. Mamma andò a prendere il cestino da cucito, lo posò sul tavolo, ma poi restò a guardare distrattamente fuori dalla finestra. Non andare via, Mary, perché devi andare via? Cominciò a dire Grace. Non andare via, raccontami una storia. Era l'ultima volta che Mary prendeva Grace in grembo e le raccontava la storia del nonno e della pantera nei grandi boschi del Wisconsin. Grace sarebbe stata una bambina grande quando Mary fosse tornata dall'università. Adesso basta, Grace, non essere insistente, disse mamma quando Mary ebbe finito di raccontare la storia. Mary, che cosa vorresti per cena? Era l'ultima volta che Mary cenava a casa. Oh. Qualsiasi cosa tu metta in tavola va bene, ma rispose Mary. Fa così caldo, disse mamma. Farei delle palline di formaggio fresco con le cipolle e poi ci sono i piselli cotti nella panna. Non li scaldo. Laura, vai a prendere insalata e pomodori nell'orto. Posso venire con te, Laura? Vorrei fare due passi, disse Mary. Restate fuori finché ne avete voglia, disse mamma. Manca ancora parecchio all'ora di cena. Passarono oltre la stalla e risalirono la collinetta che c'era dietro. Il sole stava tramontando. Come un re, pensò Laura, che si ritiri a dormire chiudendo le magnifiche cortine del suo gran letto a baldacchino. Ma Mary non era tipo da apprezzare quelle fantasie, perciò le disse: Il sole sta calando, Mary, in mezzo a soffici nuvole bianche che scendono fino al limite della terra. La parte di sopra delle nuvole è rossa. E dall'alto del cielo scendono magnifiche cortine rosa e oro coi bordi di perla. Sono un grande baldacchino sopra la prateria. Le piccole strisce di cielo tra l'una e l'altra sono di un chiaro, purissimo verde acqua. Mary si fermò. Mi mancheranno le nostre passeggiate, disse con la voce che le tremava. Anche a me, disse Laura, ma bisogna pensare che vai all'università. Non sarebbe stato possibile senza di te, disse Mary. Mi hai sempre aiutata a studiare e hai dato a mamma i tuoi 9 dollari. Oh, non erano granché, disse Laura. Nulla al confronto di quello che vorrei. Oh, era molto invece, la interruppe Mary. Davvero molto. A Laura venne un nodo in gola. Prese fiato, ma la voce le tremò lo stesso. Spero che sarai felice all'università, Mary. Oh, di sicuro. esclamò Mary. Pensa, studiare, imparare, chissà quante cose, anche a suonare l'organo. E in parte lo devo a te. Non sei ancora diventata maestra e mi hai già aiutata tanto. Andrò a fare la maestra da qualche parte appena possibile e allora sì che potrò aiutarti davvero. Mi spiace che tu debba fare questo, disse Mary. Oh, è necessario, rispose Laura, ma devo aspettare di avere 16 anni compiuti, lo sai, è l'età minima. Io non ci sarò quel giorno, disse Mary. Allora, all'improvviso, parve a tutte e due che Mary se ne andasse per sempre. Gli anni a venire sembravano vuoti e spaventosi. Non sono mai stata via da casa, Laura. Non so come farò. Mary stava tremando. Andrà tutto bene. Ti accompagnano mamma e papà. Gli esami di ammissione li passi di sicuro. Non avere paura. Non ho paura. Non è questo. È il fatto di andare via di casa. A questo non c'è rimedio, mormorò Mary. No, disse Laura. Dopo qualche istante si schiarì la voce e disse: Il sole adesso è sceso sotto le nuvole bianche. È una palla immensa, pulsante di fuoco liquido. Le nubi che gli stanno immediatamente sopra sono rosse e viola e oro e arancio, e tutte le altre nuvole in cielo sono di fuoco. Mi sembra di sentirne il calore in faccia, disse Mary. Chissà se in Iowa i tramonti e il cielo sono diversi. Laura non seppe rispondere. Scesero lentamente dalla collinetta. Così finiva la loro ultima passeggiata insieme, quantomeno l'ultima passeggiata insieme per molto tempo a venire. Un tempo così lungo da sembrare infinito. Sono sicura di passare gli esami di ammissione perché tu mi hai aiutata tanto, disse Mary. Hai ripassato ogni parola con me, tante volte che ora so tutti i libri a memoria. Ma voi, come farete, Laura? Papà ha speso tanti soldi per me, il baule, un cappotto nuovo, un paio di scarpe, i biglietti del treno, tutto quanto. Sono preoccupata. Come farà a comprare vestiti e libri di scuola per te e per Carrie? Oh, non preoccuparti. Papà e mamma troveranno il modo, lo trovano sempre, lo sai. L'indomani mattina Laura non si era ancora vestita, che mamma aveva già sbollentato e ora stava spennando le gracule che papà aveva ucciso il giorno prima. Subito dopo colazione le fece arrostire e quando si furono raffreddate le mise in una scatola da scarpe per portarle via per pranzo. La sera prima papà, mamma e Mary avevano fatto il bagno. Mary mise il suo migliore abito vecchio, le scarpe buone, mamma indossò il suo vestito elegante e anche papà mise l'abito della domenica. Si erano accordati con un ragazzo che abitava nei dintorni per farsi portare alla stazione. Papà e mamma sarebbero stati via una settimana e al ritorno sarebbero venuti a piedi dal paese. Arrivò il ragazzo col carro. Aveva la faccia piena di lentiggini e i capelli rossi che gli sbucavano fuori da uno strappo nel cappello di paglia. Aiutò papà a mettere il baule sul carro. Faceva caldo e c'era un gran vento. Mi raccomando, Carrie e Grace, fate le brave e obbedite a Laura, disse mamma. Laura, bada che i polli abbiano sempre acqua da bere e sta attenta ai falchi. E ricordati di mettere tutti i giorni a scaldare al sole le teglie del latte. Sì, ma stai tranquilla, dissero tutte e tre. Arrivederci, disse Mary. Arrivederci a tutte e tre, Laura, Carrie e Grace. Arrivederci, riuscirono a dire Laura e Carrie. Grace stava lì a guardare con gli occhioni sbarrati senza dire nulla. Papà aiutò Mary a salire sul sedile davanti, accanto a mamma e al ragazzo. Lui prese posto dietro, nel cassone del carro dove era il baule. Bene, andiamo pure, disse il ragazzo. Arrivederci, ragazze. Il carro partì, Grace spalancò la bocca e lanciò un urlo disperato. Santo cielo, Grace, vergogna! Una bambina grande come te che si mette a piangere! Disse Laura con la voce rotta. Aveva un groppo in gola anche lei. E anche Carrie sembrava lì lì per scoppiare in lacrime. Vergogna! Ripeté Laura e Grace fece un singhiozzo soffocato e smise di piangere. Papà, mamma e Mary non si voltarono indietro. erano partiti. Il carro si lasciò dietro una scia di silenzio. Laura non aveva mai sentito un silenzio simile, immenso e vuoto. Non era il silenzio sereno della prateria. Era qualcosa che le stringeva la bocca dello stomaco. Venite, disse, andiamo dentro. Quel silenzio si era infilato anche in casa. Era così grande che a Laura veniva da bisbigliare invece di parlare normalmente. Grace cercava di soffocare il pianto. Rimasero lì per un pezzo, con la sensazione che intorno non ci fosse più nulla, solo silenzio e vuoto. Mary se n'era andata. Grace ricominciò a piangere. Due lacrime luccicavano anche negli occhi di Carrie. No, così non andava. Ora e per tutta la settimana a venire toccava a Laura prendere in mano le cose. Mamma doveva potersi fidare di lei. Ho un'idea, Carrie e Grace, disse cercando di apparire allegra. Perché non puliamo tutta la casa da cima a fondo? Cominciamo subito, così quando torna mamma non avrà più da fare le pulizie d'autunno. Laura non aveva mai lavorato in vita sua tanto quanto lavorò quella settimana. Che fatica! Non si era mai accorta quanto pesa una trapunta quando la tiri su tutta gocciolante dalla tinozza, la strizzi bene e la porti fuori per stenderla al sole. Non sapeva quanto poteva essere difficile a volte non arrabbiarsi con Grace, che voleva aiutare e combinava disastri. Ed era stupefacente quanto si sporcavano tutte e tre pulendo una casa che all'inizio sembrava già abbastanza pulita. Più lavoravano, più tutto sembrava sporco. Il giorno peggiore cominciò con un gran caldo. Avevano portato fuori i pagliericci, li avevano svuotati, avevano lavato le fodere, li avevano riempiti di nuovo di fieno fresco e pulito, avevano tolto le reti dai letti e le avevano appoggiate al muro, e Laura si era schiacciata un dito. Ora stavano smontando i letti. Laura tirava da una parte e Carrie dall'altra, e all'improvviso la struttura si aprì e la testiera cadde sulla testa di Laura, che vide le stelle. Oh, Laura, ti sei fatta male! Esclamò Carrie. No, non tanto, disse Laura. Spinse la testiera contro il muro e quella scivolò lentamente sul pavimento e le finì contro la caviglia. Ah! Non poté fare a meno di gridare. Poi disse: tanto vale lasciarla lì se è lì che vuole stare. Ma dobbiamo ancora sfregare il pavimento, disse Carrie. Sì, lo so, disse Laura con la faccia scura, sedendosi in terra per massaggiarsi la caviglia. Aveva la treccia mezza sfatta e le ciocche di capelli che si appiccicavano sul collo sudato, il vestito sporco e incollato al corpo e le unghie nere. Carrie aveva la faccia macchiata di polvere e di sudore e fili di fieno nei capelli. Ci vorrebbe un bel bagno, mormorò Laura, e all'improvviso gridò: ma dov'è Grace? Era da un po' che non la vedeva. Una volta Grace si era persa nella prateria e a Brookings due bambini che si erano persi nella prateria erano morti prima che li ritrovassero. Sono qui, disse Grace con calma, entrando in casa. Piove. No, esclamò Laura. In effetti il sole era sparito, cadevano radi goccioloni, poi di colpo scoppiò un tuono. Carrie! Gridò Laura. I pagliericci, le coperte! Corsero fuori tutte e due. I pagliericci non erano molto pesanti, ma siccome li avevano riempiti il più possibile ed erano ben gonfi, era scomodo trasportarli perché sfuggivano continuamente di mano e quando furono sulla porta col primo, dovettero metterlo di taglio per farlo passare. O lo teniamo su o lo spostiamo, disse Carrie ansando. Non si riesce a fare le due cose insieme. Intanto il temporale era arrivato e stava piovendo a dirotto. Togliti! Gridò Laura e spingendo e tirando riuscì a mettere il pagliericcio a riparo in casa, ma ormai pioveva troppo forte per portare dentro l'altro e ritirare le coperte appese al filo da stendere. Lenzuola e coperte si sarebbero asciugate col sole, ma il pagliericcio doveva essere perfettamente asciutto, altrimenti avrebbe preso odore di muffa. Perciò bisognava svuotarlo di nuovo, lavare la fodera, farla asciugare e riempirla di fieno asciutto. Intanto possiamo svuotare l'altra stanza e mettere tutto di qua, disse Laura, così cominciamo a strofinare il pavimento. Per qualche tempo non si sentì altro che il rumore dei tuoni e della pioggia fuori e lo strofinio degli stracci sulle tavole del pavimento. Laura e Carrie lavoravano in ginocchio, retrocedendo verso la porta via via che pulivano una tavola dopo l'altra. Erano quasi sulla soglia quando Grace cinguettò tutta allegra. Anch'io aiuto! Era salita in piedi su una sedia e si era messa a dare il nero alla stufa. Era imbrattata di nero da capo a piedi e c'erano macchie e schizzi dappertutto sul pavimento. Aveva riempito d'acqua il barattolo del lucido, l'aveva posato sulla stufa e ora, alzando gli occhi, raggiante, per sentire le lodi di Laura, con lo straccio dette una botta al barattolo che si rovesciò in terra. Oh! Gli occhioni azzurri le si riempirono di lacrime. Laura gettò uno sguardo disperato alla casa che mamma aveva lasciato pulita e ordinata e dovette fare uno sforzo per dire: «Non importa, Grace, non piangere, ora pulisco io». Poi si gettò a sedere sui montanti dei letti ammucchiati sul pavimento, raccolse le ginocchia al petto e ci poggiò sopra la fronte. «Oh, Carrie, ma mamma come fa?» Le veniva quasi da piangere. Quello fu il giorno peggiore. Il venerdì la casa era quasi a posto e cominciarono a preoccuparsi di non riuscire a finire tutto prima che mamma tornasse. Quella sera lavorarono fino a notte fonda e l'indomani, sabato, era quasi mezzanotte quando Laura e Carrie fecero il bagno e crollarono addormentate. Ma la casa splendeva. Attorno alla stufa il pavimento era quasi bianco da quanto l'avevano strigliato e lavato. Del nero non era rimasto che un lievissimo alone più scuro. I letti erano tutti fatti con lenzuola e coperte pulite e profumavano di fieno fresco. I vetri scintillavano, gli scaffali erano lucidi e i piatti tutti lavati. D'ora in avanti si mangia solo pane e si beve solo latte e non si sporca più un solo piatto, disse Laura. Restavano solo da lavare, inamidare e stirare le tende e naturalmente da fare il solito bucato del lunedì, ma per fortuna quel giorno era domenica e di domenica non si lavora. Lunedì mattina, appena alzata, Laura lavò le tende. Quando ebbero finito di fare il bucato, le tende erano asciutte. Le inamidarono, le stirarono e le riappesero al loro posto e ora la casa era perfetta. «Teniamo Grace fuori finché non arrivano papà e mamma», bisbigliò Laura a Carrie. Nessuna delle due aveva voglia di andare a fare una passeggiata. Si sedettero all'ombra della casa e stettero a guardare Grace che correva qui e là in attesa di scorgere il treno in lontananza. Finalmente videro un filo di fumo dipanarsi sulla prateria, scomparendo lentamente lungo la linea dell'orizzonte, come una riga di scrittura incomprensibile. Dopo un po' sentirono il fischio. Passò del tempo, ci fu un altro fischio e di nuovo videro la riga di fumo dipanarsi all'orizzonte. Stavano già cominciando a dubitare che papà e mamma fossero sul treno quando li videro, piccoli per la distanza, sulla strada che veniva dal paese. Allora di colpo sentirono di nuovo il vuoto e la solitudine come il giorno in cui Mary era partita. Andarono incontro a papà e mamma alla strettoia di Big Slough e per qualche minuto parlarono tutte insieme. Papà e mamma erano molto contente dell'università. Era un solido bell'edificio di mattoni dove Mary si sarebbe senz'altro trovata bene quell'inverno. Il vitto era buono e abbondante e c'erano tante ragazze simpatiche, ma nessuna, aggiunse mamma, era vestita meglio di lei. Anche le insegnanti erano gentili. Mary aveva passato gli esami di ammissione a pieni voti. Avrebbe studiato economia politica, letteratura e matematica avanzata. E poi c'erano lezioni di cucito e maglia, ricamo con perline e musica. L'università aveva anche un armonium. A sentire quei racconti, Laura fu così felice per Mary da dimenticare quasi il senso doloroso di solitudine che le attanagliava lo stomaco. Mary aveva sempre amato lo studio. Ora poteva studiare a volontà e imparare molto di più di quanto avrebbe mai potuto imparare a casa. Deve assolutamente restare laggiù, pensava, e dentro di sé rinnovò il voto di studiare tanto, anche se a lei non piaceva quanto a Mary, per prendere l'abilitazione e diventare maestra appena possibile, in modo da poter contribuire alla retta dell'università. Si era quasi dimenticata tutto quello che avevano fatto durante la settimana. Ma quando furono a pochi passi da casa, mamma disse: «Carrie, ma cosa avete tu e Grace da essere così raggianti? Mi sa che nascondete qualcosa». Allora Grace si mise a saltare su e giù gridando: «Ho dato il nero alla stufa!» «Ma davvero?» disse mamma entrando in casa. «È proprio venuta bene, Grace. Ma ti ha aiutata Laura, non è vero?» Sai che non si deve. In quella vide le tende. Caspita, Laura, hai lavato le tende e i vetri. Oh, abbiamo fatto tutte le pulizie d'autunno, ma, disse Laura. E Carrie aggiunse: sì, abbiamo lavato le coperte e i paglierici e li abbiamo riempiti di fieno fresco e abbiamo strofinato i pavimenti, tutto. Mamma alzò le mani, stupefatta, poi sedette e le lasciò ricadere. Oh, signore, disse. L'indomani, quando ebbe disfatto la valigia, uscì dalla sua camera con tre pacchettini, uno per Laura, uno per Carrie e uno per Grace. In quello di Grace c'era un libro illustrato, le figure su carta lucida erano incollate su pagine di stoffa di diversi colori e ogni pagina aveva i bordi dentellati. Anche nel pacchetto di Laura c'era un libricino, era sottile e più largo che alto e sulla copertina rossa spiccava in lettere dorate la scritta Album dell'amicizia. Le pagine, ognuna di una sfumatura diversa, erano tutte vuote. Anche Carrie ne aveva avuto un uguale, salvo il fatto che il suo era azzurro con le lettere in oro. Ho scoperto che questi album vanno di gran moda oggi, disse mamma. Tutte le ragazze più eleganti a Vinton ne hanno uno. E a che cosa servono? Chiese Laura. Oh, chiedi alle amiche di scriverci sopra una frase o una poesia e di metterci la firma. Se anche loro ne hanno uno, tu fai lo stesso su loro. È per ricordo. Adesso non mi dispiace più tanto andare a scuola, disse Carrie. Farò vedere l'album a tutte le mie compagne e se sono simpatiche le lascerò scrivere qualcosa. Mamma era contenta che il suo dono fosse piaciuto. Disse: Pa e io abbiamo pensato che anche le altre nostre figliole dovevano avere qualcosa da Vinton, in Iowa, dove Mary frequenta l'università. La signorina Wilder, la nuova maestra. Il primo giorno di scuola Laura e Carrie partirono da casa di buon'ora. Avevano messo il vestito buono perché mamma aveva detto che sarebbero cresciute ancora prima dell'estate successiva, tanto valeva usarlo. Portavano i libri sotto il braccio e Laura anche il secchiello di latta con il pranzo. La frescura della notte aleggiava ancora nell'aria, sotto l'alto cielo azzurro. Il verde della prateria aveva cominciato a mutare in bruno e malva. Soffiava una brezza leggera che portava con sé il profumo dell'erba matura e l'odore acre dei girasoli selvatici. Lungo la strada i bei fiori gialli dondolavano la testa e nella striscia erbosa che correva in mezzo ai solchi lasciati dalle ruote dei carri sbattevano contro il secchiello con piccoli colpi. Laura camminava in un solco e Carrie nell'altro. Speriamo che la signorina Wilder sia una brava maestra, disse Carrie. Tu che dici, Laura? Pa lo pensa di sicuro, dato che è nel consiglio scolastico, osservò Laura. Magari però l'hanno presa solo perché è la sorella dei ragazzi Wilder. Carrie, te li ricordi quei due meravigliosi Morgan? Beh, il fatto che lui abbia due cavalli così non vuol dire che sua sorella sia simpatica. Magari però è simpatica davvero. Comunque, l'insegnare sarà capace all'abilitazione, disse Laura con un sospiro, pensando a quanto avrebbe dovuto studiare per prendere l'abilitazione anche lei. Il paese si ampliava. Ora c'era una nuova rimessa per i cavalli in Main Street di fronte alla banca e in fondo alla strada, al di là dei binari della ferrovia, si vedeva levarsi più in alto di tutti gli altri edifici un nuovo silos. Perché ci sono tutti questi terreni vuoti tra la nuova rimessa e il magazzino di Pa? Chiese Carrie. Laura non seppe rispondere. A lei, comunque, piaceva vedere ancora tanti pezzi di prateria in mezzo alle case. Intorno alla stalla di papà c'erano già parecchi covoni. Se quell'inverno avessero dovuto bruciare fieno come l'anno precedente, non gli sarebbe toccato andare a prenderlo alla fattoria, col rischio di restare intrappolato dalla bufera. Svoltarono a ovest in Second Street. Dietro la scuola si vedevano in lontananza alcune piccole baracche sparse nella prateria. Erano coloni arrivati quell'anno. Vicino alla ferrovia c'era un mulino e al di là dei lotti liberi, tra Second e Third Street, sorgeva lo scheletro della nuova chiesa. Si vedevano degli operai al lavoro nel cantiere e tra i ragazzi radunati davanti alla scuola c'erano molte facce nuove. Carrie si nascose timidamente dietro a Laura. Anche a Laura tremavano un po' le ginocchia. Si fece forza perché doveva infondere coraggio a sua sorella, ma aveva i palmi delle mani sudati, tanto la mettevano a disagio tutti quegli occhi estranei che la fissavano. Ci saranno state una ventina tra ragazze e ragazzi. Chiamando a raccolta tutto il suo coraggio, Laura si avvicinò al gruppo con Carrie dietro. I maschi si erano raggruppati tutti da una parte e le ragazze dall'altra, e Laura pensò che non ce l'avrebbe mai fatta a passare lì in mezzo per raggiungere la porta. Poi, a un tratto, riconobbe Mary Power e Minnie Johnson. Le conosceva perché avevano già frequentato la scuola l'anno precedente, prima che cominciassero le bufere di neve. Erano ferme sulla soglia e Mary Power disse: "Ciao Laura!" Gli occhi scuri ridevano, era contenta di rivederla. Anche le lentiggini sulla faccia di Minnie Johnson ridevano. Di colpo, Laura si sentì a suo agio e pensò che Mary Power era proprio simpatica. "Noi due ci siamo già scelte il posto, ci siamo messe nello stesso banco", disse Minnie. "Potresti prendere quello vicino a noi, dall'altra parte del corridoio." Entrarono tutte e tre nell'aula. Sull'ultimo banco di una delle file riservate alle ragazze c'erano già i libri di Minnie e di Mary. Laura posò i suoi sull'ultimo banco della fila accanto. Quelli in fondo, vicino alla parete, erano i posti migliori. Carrie, invece, doveva stare nei primi banchi, con le bambine più piccole.